Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Questa sera abbiamo in studio il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Claudio De Vincenti. Buonasera De Vincenti. Buonasera, buonasera. Dunque, De Vincenti ha la delega sull'energia e sui rapporti istituzionali con le parti sociali in situazioni industriali critiche, che di questi tempi abbondano. Abbiamo Fiat, Ilva, Alcoa, Carbosulcis, chi più ne ha più ne metta. Vediamo, tra l'altro, che alcune di queste situazioni in qualche modo la riguardano doppiamente, per esempio il caso dell'Alcoa, dove la questione del costo dell'energia è alla base della crisi industriale o comunque uno delle ragioni più forti. Eppure questa azienda, l'Alcoa, gode già di un trattamento di favore dal punto di vista dei costi dell'energia: interrompibilità, super interrompibilità, sconti vari sugli oneri come tutti gli energivori. Tutti i favori che poi si scaricano sulle tasche delle famiglie, delle piccole imprese. Insomma, sta venendo al nodo la questione del costo dell'energia in questo paese, della struttura energetica di questo paese. Allora io le chiedo che cosa state facendo, cosa pensate di fare per contenere nell'immediato il problema, ma anche se nel medio-lungo periodo avete in mente una strategia per abbassare questo costo dell'energia così alto. Intanto mi consento una precisazione: la crisi dell'Alcoa non dipende dal costo dell'energia, questo è un luogo comune che è ora di sfatare definitivamente, sia perché in questi anni gli sconti tariffari che sono stati dati ad Alcoa hanno sempre consentito di tenere il costo dell'energia anche un po' sotto quello dei principali competitors come europei, la Germania per esempio, esattamente, sia perché per l'eventuale investitore, che noi stiamo naturalmente attivamente cercando, che rilevi lo stabilimento Alcoa, le condizioni che abbiamo dato, del tutto in linea con gli strumenti che l'Unione Europea consente di adottare, consentono appunto di tenere il costo dell'energia in linea con quello degli altri paesi. Comunque, quindi, non è quello il problema dello stabilimento Alcoa, è un problema di invecchiamento dell'impianto, è un impianto invecchiato su cui non sono stati fatti investimenti negli ultimi anni, quindi c'è un problema di efficienza, di produttività, quindi e poi complessiva di organizzazione del lavoro e di produttività dello stabilimento. Comunque, detto questo, insomma, chiaramente il problema del costo dell'energia è un problema serio per il nostro paese, al di là dei casi singoli, che riguarda l'insieme del tessuto industriale del nostro paese, che sopporta di fatto un costo dell'energia significativamente più alto, sia come prezzo del gas, sia come prezzo dell'elettricità, rispetto agli altri paesi, ai competitori degli altri paesi europei. Quindi è uno degli obiettivi chiave della strategia energetica nazionale, direi che è il primo degli obiettivi. Io credo che gli strumenti chiave per avere un abbassamento del costo dell'energia nel nostro paese saranno, prima di tutto, l'efficienza energetica, su cui stiamo spingendo molto, perché questo riduce i consumi e quindi comunque contiene il costo dell'energia per unità di prodotto. Poi ne parliamo specificamente. Senz'altro. Poi, molto importante è la capacità di trasporto delle reti, sia la rete del gas sia la rete elettrica, perché potenziare le capacità di trasporto e di scambio con l'estero consente di mettere in comunicazione il nostro mercato interno con il mercato interno europeo più in generale, e quindi di arrivare ad una competizione sullo scenario europeo che farà abbassare i prezzi anche in Italia, allineandoli a quelli degli altri paesi. Quindi, diciamo, c'è una questione di costo del gas in particolare, che quale produciamo più di metà della nostra energia elettrica, o certamente circa metà allo stato attuale, e mentre il mercato elettrico è ben liberalizzato, lo è anche di fatto, oltre che nella forma, quello del gas di fatto lo è solo formalmente. Beh, no, qui c'è uno dei problemi. Comincia a esserci una concorrenza anche sul mercato del gas, non irrilevante, tra l'altro con alcuni provvedimenti sia dell'autorità che dell'antitrust, e poi anche nostri provvedimenti nel decreto legge liberalizzazioni, stiamo migliorando la possibilità di cambiamento di fornitore, trasparenza, informazione eccetera, perché il cliente possa cambiare fornitore. Naturalmente c'è un ruolo molto rilevante dell'ENI, questo lo sappiamo, però cominciano ad esserci anche altre imprese che importano e commerciano gas in Italia. Ecco, perché poi poi il problema non è tanto quello forse di cambiare fornitore oggi, ma che alla fine le importazioni, il grosso le fa l'Eni, e anche i competitor dell'Eni finisce che si riforniscono dall'Eni. Sì. Per esempio negli Stati Uniti, lei sa che con lo Shell Gas il prezzo è crollato tutto, di 4 volte, cioè, è cambiato tutto lo e noi riusciamo a importare per esempio gas dagli Stati Uniti? C'è una, come dire, uno scenario di questo tipo? Perché lì sì che si avrebbe una riduzione sostanziale del costo della materia prima. Io credo che è più realistico adesso nell'immediato pensare a rafforzare le nostre capacità di diversificazione delle fonti di approvvigionamento attraverso prima di tutto il gas liquido, e quindi i rigassificatori. I rigassificatori svolgono un ruolo fondamentale. Ne abbiamo autorizzati altri 4 rispetto ai 2 che ci sono oggi. L'altro terreno su cui stiamo lavorando è quello dei gasdotti internazionali, in particolare verso l'area del Mar Caspio, che è un'area di nuove scoperte di giacimenti di gas che dovrebbe consentire, però più in prospettiva, fra 4-5 anni, di avere nuove fonti di approvvigionamento. Perché i rigassificatori in che periodo immaginiamo di poterli avere funzionanti? Ma intanto guardi, i rigassificatori credo che 2 sono già in avvio di costruzione, quindi 2 di questi 4 in tempi relativamente rapidi, adesso non le so quantificare esattamente, 2 anni, 3 anni massimo. Gli altri 2 forse qualcosa di più, però comunque sono, e poi stiamo lavorando anche ragionando su altri possibili impianti di rigassificazione. Per quanto riguarda l'altro tema molto importante, quello della per sicurezza, abbassare il costo è il potenziamento delle capacità di stoccaggio e la loro assegnazione a imprese che competano tra loro poi nella fornitura di gas utilizzando gli stoccaggi. Questo l'abbiamo perché consente fatto, di comprare una partita spot per esempio di gas quando costa collocarla poco, nello stoccaggio e poi la si mette via. Esattamente, questo l'abbiamo fatto col decreto legge liberalizzazioni e perfezionato col decreto legge sviluppo del luglio scorso. Questo è un altro campo importante, quello degli stoccaggi, che come si usa dire migliora la liquidità del mercato. Grazie sottosegretario De Vincenzi. Molte grazie a voi. Ci fermiamo qui, domani la seconda parte dell'intervista al sottosegretario De Vincenti. Buona serata a tutti voi.